Gabbiano. Il Gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Tutti i grandi eserciti per vincere le battaglie hanno sempre avuto bisogno di grandi condottieri. Mi viene in mente la frase del generale Massimo Decimo Meridio nel Gladiatore: al mio segnale scatenate l'inferno. E in tutti gli ambiti, tutti i gruppi di lavoro, arte, sport, hanno avuto bisogno di un leader, di un condottiero. E anche nel calcio, una squadra può essere composta da grandi campioni, ma ci vuole qualcuno che sappia motivarli, organizzarli, dirigerli, se no è sempre un gruppo di persone che non fanno un gruppo con la G maiuscola. Oggi raccontiamo la storia di un allenatore speciale. È un allenatore considerato tra i migliori del mondo, ma non solo per la quantità di trofei che è riuscito a vincere, ma anche perché ha saputo gestire la sua immagine. È diventato un grande protagonista anche fuori dal campo, uno che ha vinto in ogni paese in cui ha allenato, ha vinto tanti titoli, come li chiamerebbe lui. Insomma, avete capito che stiamo parlando dello Special One di José Mourinho. E la nostra è una storia che comincia in una cittadina a 20 km da Lisbona, è Setúbal, dove c'è il Vitória Setúbal. Qui il 26 gennaio del 63 nasce lui, José Mário dos Santos Mourinho Félix, insomma, José Mourinho, figlio di un calciatore, Félix Mourinho. Peraltro da giovane lui prova a intraprendere la carriera del padre, ma non ha risultati, e quindi capisce subito che è inutile incaponirsi, andare avanti fino a fine carriera, a veleggiare, a navigare nelle serie minori, perché lui di calcio ci capisce, lo sa leggere da bordo campo. Così si diploma all'ISEF di Lisbona, poi comincia a stare in panchina, prima come assistente del padre, poi allenando le giovanili, insomma fa la gavetta. Poi nel 92 a allenare lo Sporting di Lisbona arriva un inglese, un grande allenatore, Bobby Robson. Mourinho è portato per le lingue, conosce bene l'inglese e riesce a farsi assumere come assistente e interprete dell'allenatore, stando accanto a uno come Robson, e c'è molto da imparare. La prima volta che arrivai a Lisbona, all'aeroporto, mi venne incontro il presidente dello Sporting Lisbona e José Mourinho, che si presentò come il mio interprete. Parlava un inglese molto buono e poi era competente, molto attento, preciso, e spesso azzardava dei consigli su come gestire meglio i giocatori portoghesi. Ed era molto intelligente. E queste sono le parole proprio di Bobby Robson. E Mourinho per lui non si limita a fare da interprete, ma anche da mediatore tra lui e i giocatori più difficili da gestire. Comincia a studiare la psicologia dei giocatori, a capire l'ambiente dello spogliatoio, a renderlo più sereno. Quando Robson passa al Porto, Mourinho diventa vice allenatore, vince una Coppa del Portogallo e due campionati. E nel 96 Robson viene chiamato a Barcellona e si porta ancora dietro lui Mourinho come vice allenatore, come interprete. Già, perché Mourinho nel frattempo ha studiato anche lo spagnolo, il catalano, e quindi approda a Barcellona anche se non ha una panchina tutta sua. Però qua accade una cosa molto particolare, perché il 28 giugno dell'87, durante i festeggiamenti per la vittoria della Coppa di Spagna, Mourinho si avvicina al microfono e parla così: "Oi, mañana y siempre con el Barça en el corazón." Oggi, domani e per sempre con il Barcellona nel cuore. Parole che infiammano i tifosi, parole da condottiero, dette da uno che sarebbe solo un vice allenatore, ma che dimostra di sapere già quanto siano importanti poche parole dette nel momento giusto, al posto giusto. Mourinho rimane al Barcellona per 4 stagioni, sempre come secondo di Robson, e poi Robson lascia il posto a Van Gaal. La squadra vince campionati, coppe di Spagna. Nel 2000 Van Gaal deve giocare la Coppa Catalunya, che è un torneo minore che si disputa tra squadre catalane, e lui lì affida completamente la squadra a Mourinho, che così può vincere il suo primo trofeo da allenatore. Però spesso alle vittorie arrivano le telefonate che fanno fare le valigie a chi vince per fare il grande salto. Insomma, si torna a casa in Portogallo, questa volta da allenatore, e si va a allenare il Benfica. João Tomás, Mourinho corre para o relvado e ajoelha-se para fechar este golo. Um balão que parecia perdido. Benfica Sporting Lisbona, è un derby molto sentito, 3-0. Mourinho in panchina si rivolge ai tifosi agitando le braccia per farli urlare, insomma ha un entusiasmo in campo che diventa contagioso, però ha anche un brutto carattere, un carattere spigoloso, così a metà campionato, quando cambia la presidenza della squadra, lui lascia il Benfica, va all'Eiria, che è una squadra modesta che deve combattere per evitare la retrocessione. Bene, quell'anno il Leiria arriva quinto davanti al Benfica e Mourinho comincia a farsi notare, così squilla il telefono di nuovo e questa volta la destinazione è Oporto, cioè il Porto. Dicembre 2001, nella prima conferenza stampa, Mourinho esordisce dicendo: siamo i più forti, saremo i campioni, e manterrà la promessa. Il falco e il gabbiano. Campionato 2002-2003, Mourinho comincia a tirar fuori dal cappello dei campioni, si chiamano Victor Bahia, Riccardo Carvalho, Deco, Elder Postiga, ragazzi con cui lui comincia a impressionare l'Europa. Nel suo primo campionato da allenatore dei biancocelesti del Porto, Mourinho vince il campionato, 86 punti, ma vince anche la Coppa del Portogallo e la Coppa UEFA, il primo triplete. L'anno successivo vince il campionato, il 26 maggio 2004 gioca la finale di Champions League contro il Monaco. Storico per il Portogallo, che aveva vinto solo la Coppa dei Campioni negli anni 60 con il Benfica. Questo è il primo dei tre gol che il Porto segna con il Monaco, 3-0. Quinto titolo in due anni tra campionati e coppe, ma soprattutto il grande colpo d'ala di Mourinho, che riesce a portare il Porto sul gradino più alto d'Europa. I tifosi lo adorano, però lui ha già la valigia pronta e tutti lo sanno. E nella foto con il Porto che festeggia la Coppa, insomma, si vede Mourinho con una faccia che dice molto, lui è già da un'altra parte. È stato chiamato in Inghilterra alla corte di Roman Abramovich, il magnate russo che aveva comprato il Chelsea e che ha molte sterline da spendere, ma che non è ancora riuscito a vincere. È riuscito a portarsi a casa Mourinho, anche perché il Chelsea non vince una Premier League da 50 anni. Bisogna assolutamente riportare questa squadra in auge, e Mourinho comincia a allenare gente come Drogba, come Lampard, Terry, Gudjonsen, tra i pali c'è Cech. Abramovich non ha badato a spese, ma sappiamo benissimo che non basta avere tanti campioni per vincere. Magari si può dominare il proprio campionato, come ha fatto per anni Paris Saint-Germain in Francia, ma che non riesce a uscire dai confini francesi. Per gestire così tanti campioni ci vuole un uomo di primo ordine. Nel luglio del 2004 allo Stamford Bridge Mourinho si presenta in conferenza stampa e pronuncia un discorso che lo segnerà per tutta la sua carriera. The first contact was for me very impressive. Il primo contatto è stato per me molto positivo, perché ho trovato persone con la mia stessa mentalità, persone che amano il calcio come me, persone che vogliono vincere come me. Abbiamo dei grandi giocatori e, perdonate la mia arroganza, avete un grande allenatore. Sono un campione d'Europa, quindi non sono uno dei tanti. Io sono uno special one. I think I'm a special one. Eh sì, ci vuole autostima nella vita e Mourinho di autostima, insomma, ne ha tantissima. E da quel giorno il più famoso dei soprannomi con cui viene identificato José Mourinho è questo, The Special One. E insomma, lui è un campione anche nella comunicazione, è un genio della comunicazione. Si autodefinisce senza troppi problemi il migliore, lui non ha paura delle sfide che dovrà affrontare per dimostrare che è il migliore. E il 30 aprile 2005, dopo aver subito una sola sconfitta in campionato, il Chelsea riconquista dopo 50 anni lo scudetto che tutti i tifosi stavano aspettando da due generazioni. Vince la Premier League con un punteggio record, 95 punti. L'anno successivo si replica, insomma, quattro campionati consecutivi in quattro anni con due squadre diverse. lui rimane al Chelsea fino al 2004 e negli anni successivi non riesce più a centrare il campionato e neanche il sogno della Champions League. A fine 2008 Mourinho, in scadenza di contratto, riceve un'offerta dall'Italia. I tifosi inglesi del Chelsea sperano che lui rimanga ancora a Londra, ma Mourinho è l'uomo delle sfide, non può fermarsi. A settembre del 2008 The Special One lascia l'Inghilterra sapendo in cuor suo che ci sarebbe tornato. Il suo un arrivederci, ma adesso c'è una sfida molto particolare da affrontare. Che sono arrivato a un club speciale e quando il club è speciale l'allenatore diventa uno di più. Io non ho mai dimenticato che penso che sono un grande allenatore, ma non voglio essere il speciale, voglio essere semplicemente José Mourinho, che non cambia, che è la stessa persona di sempre, che ha la stessa ambizione, la stessa motivazione. Mourinho esordisce a Milano in una conferenza stampa che farà epoca. Parla un italiano molto preciso perché ha imparato l'italiano, ha capito che per comunicare in un posto devi sapere bene la lingua, conosce bene le regole della grammatica, ma anche modi più coloriti. Sentite come si è impossessato di una parola assolutamente gergale e l'ha usata nel momento giusto. Risponde così a un giornalista inglese che lo provoca. Ci sarebbe una difficoltà per un giocatore come Frank Lampard a inserirsi nel calcio italiano, cioè per quello che ha visto in Inghilterra e qui in Italia? Perché parla del giocatore del Chelsea? Perché è un modo furbo di fare la stessa domanda di lui. Sì. Ma io non sono Pirla. E qui lui si conquista il cuore dei tifosi, tifosi nerazzurri che sono esigenti, che sono anche disincantati, delusi negli ultimi anni, hanno vinto poco e poi si sono abituati a vincere solo negli ultimi 3-4 anni, diciamo dopo Calciopoli, perché con Mancini hanno vinto 3 volte il campionato, insomma 2 più 1 a tavolino, però non sono mai andati oltre gli ottavi di finale in Champions League. Insomma, il popolo nerazzurro è un popolo particolare. Mourinho vuole vincere tutto, ha un sogno, il triplete, campionato, Coppa Italia e Champions League. È un sogno che comincia a entrare all'interno delle notti del popolo nerazzurro. Il Falco e il Gabbiano. Stiamo raccontando la storia dello Special One, un uomo speciale, un allenatore speciale, José Mourinho, il portoghese che si sposta da un paese all'altro e porta sempre vittorie nei club che lo ingaggiano. A ogni conferenza stampa d'esordio lui, con la sua autostima sconfinata, promette vittorie che arrivano, lo trasformano in un personaggio capace di ottenere risultati, ma è diventando sempre più un esperto di comunicazione, ha la risposta pronta sia che parli in spagnolo, in portoghese, in inglese o in italiano, e lingue diverse e vittorie diverse legate a un filo conduttore che è sempre lo stesso: essere il migliore. Mancini la passa per Ibra in area di rigore, Slata! Adesso voglio vedere se ringrazia Mourinho che gli ha permesso di inseguire ancora il titolo di capocannoniere. Finisce qui, Inter batte Siena 3-0. Già da ieri sera l'Inter era aritmeticamente campione d'Italia per la 17ª volta. Eh sì, quarto scudetto consecutivo per l'Inter, diciamo terzo sul campo, però l'Inter si ferma in Champions League. Mourinho vuole vincere tutto, lo sappiamo. Così l'anno dopo, nel 2010, si verifica, come dire, l'anno perfetto per tutti i tifosi dell'Inter. Eh sì, perché l'Inter vince il campionato, vince la Coppa Italia, ma soprattutto dopo 45 anni torna a vincere la Champions, il sogno del triplete, il sogno e non l'ossessione. Questa è la differenza enorme, insomma, tra squadre diverse, il sogno di vincere. A questo punto dobbiamo parlare per forza con un protagonista di questa epopea, uno dei protagonisti principali, uno dei calciatori più amati dai suoi tifosi in 110 anni di storia. Oggi è il vicepresidente dell'Inter, ma soprattutto lui c'era e quelle coppe le ha alzate tutte. Javier Zanetti, buongiorno capitano, io non riesco a chiamarti vicepresidente. Buongiorno Enrico, buongiorno a tutti voi. Buongiorno, senti, stiamo raccontando di Mourinho e quindi la prima domanda, senza nulla togliere, tu hai avuto tantissimi allenatori, sicuramente alcuni ti sono piaciuti più di altri, con alcuni hai legato più di altri, qualche nome lo so ma ovviamente non lo faccio perché ce lo siamo detti in confidenza. Però Mourinho cosa aveva di veramente speciale secondo te? Prima di tutto Mourinho è un allenatore che cura tutti i dettagli, tutti i particolari. Dopo preparava le partite con un senso di grandissima responsabilità, dove noi arrivavamo a un incontro preparatissimo al massimo, sapendo tutto l'avversario, però soprattutto sapendo tutto quello che dovevamo fare noi. Certo. E poi quello che trasmetteva, lì è un uomo di grande personalità e riusciva a trasmettere tutta questa passione, tutta questa voglia a tutti noi. E per questo dopo i risultati alla fine sono stati quelli che tutti sanno. E certo, quindi sì, beh, che sapesse di calcio si vedeva per come metteva in campo l'Inter, ma come ha messo in campo tutte le sue squadre. Ma l'impressione che io ho è che lui avesse la parola giusta per ognuno, cioè che fosse uno psicologo superiore alla media degli allenatori. Sì, perché lui era... Perché eravate diversi voi, cioè tra... Sì, no, e soprattutto lui con ognuno di noi parlava in maniera diretta e è riuscito a trovare il linguaggio giusto per ognuno. Sì, a trovare il linguaggio giusto per ognuno e è riuscito a che tutti noi dessimo il massimo delle nostre potenzialità in ogni incontro, in ogni situazione, anche quando le situazioni erano situazioni di difficoltà. E c'era la squadra che reagiva tutti insieme e li affrontava e li superava. Eh sì, ma poi voi insomma il triplete l'hanno vinto 17-18 persone, non 30 come nelle squadre abitualmente. Eravate veramente molto pochi giocatori, come nelle squadre degli anni 60-70. Quindi bisognava sacrificarsi tanto. Sì, bisognava sacrificarti tanto, avere questo spirito di squadra, di team, di collaborazione. Sapere che è il singolo giocatore importante, però nessuno è più importante che la squadra. Sì. Credo che questo ci ha accompagnato durante tutto questo percorso e per noi man mano che passavano le partite sapevamo che ce la potevamo fare perché il gruppo era convinto e batterci le altre squadre dovevano fare un sforzo incredibile. Certo. Per noi il triplete era un sogno che dopo è stato realtà, però in quel percorso lì, che è stato un percorso per tutti noi fantastico, perché in tutte le partite praticamente ci giocavamo una finale. Sì. E l'abbiamo vissuto in questa maniera e l'ultimo mese è stato un mese di tantissima pressione e tensione, però la squadra si vedeva che era pronta per affrontare ogni situazione. Sì. Senti, Xavier, ma quando hai saputo che lui andava via e che cosa hai pensato? No, se sentiva già... Lui sarebbe andato via anche se non aveste vinto la Coppa, secondo sì, te? Sì, perché lui è un allenatore anche che ha tante ambizioni e le mancava anche l'esperienza nel calcio spagnolo. Sì. Allora, il fatto del Real Madrid per lui era una sfida importante e sapeva che tutto quello che era riuscito a fare con noi, dopo anche diventava difficile poter ripetere una cosa simile. Noi, io sinceramente con lui c'è un grandissimo rapporto, io già iniziai a capire qualcosa le ultime due settimane, prima della finale del Champions, però allo stesso tempo garantisco, posso dire che lui ci teneva tantissimo prima a finire quello che era con noi, che era da finire e che era da finire come l'abbiamo fatto. E dopodiché pensare a questa nuova sfida che era il Real Madrid. Senti Xavier, ti faccio l'ultima domanda. Volevo sapere quale partita secondo te possiamo giudicare la partita di Mourinho. A me viene in mente quella in Russia che avete vinto con gli due gol. Quella in Russia è stato il primo segnale dove noi abbiamo capito che potevamo arrivare lontano in Champions, per come si è adatta la partita, perché nel primo tempo eravamo fuori, perdevamo 1-0. Sì. Dentro, nell'intervallo dentro lo spogliatoio, lui ha fatto un discorso. Ecco, è quello, lì volevo arrivare. Lì ha fatto un discorso a tutti noi dicendo: guarda, io rischio perché in questo momento siamo fuori della Champions, tolgo due difensori, metto due attaccanti, e le grandi squadre in certi momenti ci devono provare, soprattutto nella situazione che ci trovavamo noi. E dopo mi viene in mente la partita del Camp Nou anche, perché quella è stata una partita contro una grande squadra, per me la migliore in quell'anno lì, in 10 contro 11 in 10 dopo 20 minuti che ci troviamo con 10 uomini, dove lui era tranquillissimo perché lui si vedeva che trasmetteva anche questa tranquillità. Io mi ricordo che l'ha andato a dire qualcosa a Guardiola come dicendo: guarda che noi passiamo lo stesso, capito? Perché c'era questa convinzione, e lì si è visto anche ancora di più lo spirito di squadra, perché lì tutti ci siamo sacrificati, perché lì eravamo a un passo del sogno che era arrivare in finale o dalla delusione, o della delusione di magari essere arrivati vicini e purtroppo di non potercela fare. Certo. Senti capitano, ti ringrazio infinitamente, a prestissimo, in bocca al lupo ovviamente per l'Inter, ma per tutta la tua vita, la tua carriera. Grazie a tutti voi, grazie per questa chiacchierata e soprattutto per ricordare questi momenti che sono quelli che a tutti noi ci hanno segnato tantissimo. Lo sappiamo. Un abbraccione, grazie. Ciao. E così, dopo aver vinto il triplete il 28 maggio del 2010, c'è questa data infausta per il pubblico e i tifosi nerazzurri, perché Mourinho lascia milioni di vedove, lascia Milano da vincitore, si trasferisce a Madrid, dove è stato chiamato per allenare il Real. È un altro paese, altra voglia di vincere, la stessa voglia di vincere. 4 anni con una vittoria nella Coppa del Re, nel 2012 un campionato stravinto con 100 punti, poi la Supercoppa di Spagna contro il Barcellona, vittorie personali perché viene premiato come allenatore dell'anno e non è la prima volta. Però i risultati si ottengono anche fuori dal campo, nelle conferenze stampa. Mourinho risponde alle domande dei giornalisti in modo brillante, inaspettato. Però ci sono gli altri allenatori, ce n'è uno con cui Mourinho non è mai riuscito ad andare d'accordo. Siete voi che lo fate diventare fenomeno. Per me è un buon allenatore. E sì, è un duello a distanza quello tra Mourinho e Ranieri, perché Mourinho dal Porto va al Chelsea a sostituire Ranieri, poi in Italia con Mourinho all'Inter e Ranieri prima alla Juve poi alla Roma, lui batte Ranieri, diciamo così, e poi Mourinho torna a allenare il Chelsea proprio però nell'anno in cui Ranieri trionfa con il suo Leicester. Però c'è anche da dire che quando il Leicester, in maniera direi un po' vergognosa, esonera Ranieri, Mourinho da uomo vero fa una conferenza stampa con una maglietta con scritto CR, un omaggio a Claudio Ranieri, quindi ammette in qualche modo la sua ammirazione nei confronti di Ranieri, insomma un gesto molto bello, molto più di quello che fece Ranieri con Mourinho. Intanto Mourinho nel maggio 2015 aveva vinto ancora la Premier League, ottavo campionato in 4 stati diversi, però a dicembre perde nello scontro diretto con il Leicester di Ranieri e viene licenziato, un'onta che lui non aveva subito, è uno dei pochi colpi d'ala verso il basso in una carriera sempre vissuta al top. E poi nel 2016 si rimane in Inghilterra, ma in un'altra panchina, quella dei Red Devils del Manchester United, con un contratto milionario, si parla di quasi 60 milioni di euro, però lui sa di valere tutti i soldi che gli vengono offerti, perché tra contratti, sponsor, fa parte di quei 4-5 allenatori che ottengono ingaggi anche superiori ai campioni che allenano, però poi insomma ripagano le società che li hanno pagati in maniera evidente, perché vincono. Lui riesce a scherzare anche su questo. Sentite come risponde a un giornalista italiano che ai tempi dell'Inter l'aveva accusato di non aver messo in campo la miglior formazione possibile. C'è una differenza molto grande fra il nostro lavoro e il vostro lavoro. È una differenza molto grande. Io ti prometto, tu scrivi la tua squadra e io gioco con la tua squadra. Io gioco. Dei 9 milioni se me la... No. Anche 500.000 euro. No, 9, 11. Più pubblicità, 14. Diciamo che la spavalderia non gli manca. Intanto il 7 agosto del 2016 va in scena un'altra puntata della telenovela tra Mourinho e Ranieri, col Manchester che batte l'Ester nella Community Shield, che è la Supercoppa italiana, e Ranieri verrà esonerato poi qualche mese dopo, però con quel gesto bellissimo che fece Mourinho. E poi c'è la vittoria contro l'Ajax in Coppa UEFA, un torneo che il Manchester non aveva mai vinto. Mourinho che esulta, felice con i suoi giocatori e che abbraccia anche José Junior, il figlio che ha 17 anni e che gioca come portiere nelle giovanili del Fulham. Un abbraccio particolare, padre e figlio che si rotolano per terra inquadrati dalle telecamere di tutto il mondo. Insomma, un gesto molto bello per un uomo che ha passato la vita a festeggiare vittorie. Beh, io spero che questa sia stata una puntata non solo a uso e consumo del popolo nerazzurro, ma a uso e consumo di tutti quelli che apprezzano le grandi personalità, le grandi persone, i grandi condottieri, i grandi psicologi e tutte le entità che sanno muoversi in questo mondo dirigendo le sorti del mondo, volando in alto come il falco e il gabbiano. Se anche voi conoscete una storia che merita di essere raccontata, scrivetemi, seguitemi, interagite con me sul sito di Radio 24, sui miei, sui nostri social, insomma, se mi cercate, lo sapete, mi trovate. Ciao, a domani. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri, testo di Dodo Chipinti, produzione a cura di Luigi Speciale e Anita Panizza.